童话。 艾迪，Heidi è la storia di una bambina orfana che vive nelle Alpi svizzere. Heidi ha 5 anni. Heidi perse i suoi genitori quando aveva appena 3 anni. Da quel momento in poi ad accudirla è stata la zia Tate. Un giorno zia Tate ottenne un lavoro a Francoforte e decise di lasciare la bambina ad un suo parente più stretto. Così la piccola Heidi andò a vivere con suo nonno alle pendici della montagna. Zia Tate, non voglio vivere qui. Per favore, non mi lasciare. Tesoro, lo faccio per te, per migliorare la tua vita. Heidi era molto triste. La piccola bambina ha accettato con gioia di vivere in montagna insieme al suo nonno brontolone. Si innamorò di quelle montagne, del tramonto roseo, del profumo della natura e dei tanti animali. Si affezionò ad una tenera capretta e giocava tutto il giorno con lei. Ciao! Fiocco di neve! Vieni qui! La piccola Heidi dormiva su di un letto di paglia e guardava le stelle che brillano di notte. Heidi iniziò ad amare la natura e tutto ciò che la circondava. Heidi, pochi giorni dopo, incontra il suo nuovo amico, Peter, un bambino di 7 anni che viveva in un casolare vicino alle pendici della montagna, con la madre e la nonna cieca. Muoviti, Heidi! Dobbiamo andare al pascolo! Peter, dammi solo un minuto! Heidi si diverte ogni giorno a giocare con il pascolo, con Peter e le sue amate caprette. Heidi, dopo il suo ritorno, trascorre del tempo con la nonna cieca di Peter o aiuta il suo caro nonno a svolgere le varie faccende di casa. Ben presto il suo caro nonno si affeziona molto alla piccola e diventa protettivo nei suoi confronti. Si rifiuta di mandarla a scuola, perché tempo fa aveva litigato con coloro che vivono nel villaggio di Dorfli, dove tutti gli abitanti lo chiamavano il vecchio della montagna. Heidi, mia cara, io non ti lascerò mai andare via da me. Ti voglio bene, nonno. Tutto stava andando bene nella loro vita, finché un giorno la zia Tate ritorna a casa del nonno. Tate prese Heidi e la portò a Francoforte. Per essere la dama di compagnia di una bambina invalida, la piccola e dolce Clara, che poteva muoversi solo con la sedia a rotelle. Giunta a casa della piccola Clara, Heidi era stupita nel vedere che tutti quanti dovevano essere disciplinati e obbedire agli ordini della governante, signorina Rottermeier. Heidi vide che Clara ha una vasta collezione di tanti giocattoli e il suo guardaroba è pieno di tanti bellissimi vestiti. Heidi divenne ben presto una grande amica per la piccola Clara. I giorni passavano e tutti iniziarono ad amare la piccola Heidi. Clara, il padre e la sua nonna, tutti si affezionarono alla piccola bambina svizzera. Tuttavia la signorina Rottermeier, la governante dei Sesemann, non vede di buon occhio Heidi per come si veste, perché non è ancora in grado di leggere e non ha imparato come comportarsi, come si addice ad una signorina di classe. La signorina Rottermeier pensa che Heidi sia pestifera. Misericordia, Heidi! Impara un po' di disciplina! Mi dispiace, signorina Rottermeier. Con il passare del tempo, Heidi diventa sempre più nostalgica. La nonna di Clara vide che Heidi era infelice. Prese la decisione di parlare a Tate, la zia di Heidi, ma essa era molto egoista. A nulla servirono gli sforzi per convincerla ad aiutare la piccola bambina. Nonna, voglio ritornare a casa, per favore! Mi manca molto il nonno, Peter e le mie caprette! Heidi, mia cara bambina, prega Dio e chiedi il suo aiuto. Anche se Heidi aveva tutte le comodità della vita, si sentiva come un uccellino in gabbia, Era molto infelice e ha iniziato a sentirsi sola. Non nutriva nessun interesse per qualsiasi cosa. Nel profondo del suo cuore voleva tornare dal suo nonno amato, da Peter, e tra le sue amate montagne. Ma non sapeva come tornare. La situazione divenne difficile, tanto da diventare una sonnambula. Un giorno, Heidi aprì la porta di casa Seseman, pensando di tornare a casa sua sui monti. Peter, nonno, sono tornata! La nonna, vedendo questa scena, si rattristò. Il dottor Klassen, il medico di Clara, insistette sul fatto che Heidi dovesse tornare a casa del nonno. Mia piccola bambina, Dio ti ha ascoltata, che gioia! Heidi, ho una buona notizia per te. Dimmi, nonna! Stiamo preparando le valigie, torni a casa da tuo nonno. Oh, ti voglio bene, nonna! Sei la migliore! Adesso dirò addio a tutti quanti! Clara, è il momento di lasciarci! Ci vediamo presto, lo prometto! Vieni in montagna dal nonno e ti mostrerò le montagne! Non andare, Heidi! Mi mancherai! Mi mancherai anche tu! Soprattutto tu e la nonna! Heidi ha invitato Clara e la sua famiglia in montagna. Heidi, appena raggiunse la sua casa, iniziò a correre per la gioia. Nonno! Sono tornata! Mi sei mancato tanto! Mi sei mancata troppo anche tu, mia cara! Oh, mia cara Heidi! Io non ti lascerò più andare via, piccolo tesoro! La mia bambina! Il ritorno in montagna della piccola Heidi rese il nonno molto felice e allegro di riavere la compagnia della piccola bambina. Heidi rivide il suo amico Peter. Peter, eccomi! Sono tornata! Heidi, che bello! Mi sei mancata tanto! Sai che avevo una nuova amica a Francoforte. Si chiama Clara. Ho vissuto insieme a lei. Heidi narra le sue avventure a Peter e a sua nonna. Di tutto quello che ha vissuto a Francoforte. Pochi mesi dopo, Clara decise di fare una sorpresa ad Heidi e decise di rimanere con Heidi per un mese. La piccola Clara giunse fino in cima alle montagne ed era molto felice di incontrare la sua amica. Piccola Heidi, guarda chi è venuta a farti visita! Chi è, nonno? Heidi, sono io, Clara! Dopo aver sentito il suo nome, Heidi si alzò subito di scatto. Sono così felice di vederti dopo tanto tempo! Clara era così felice quando ha riabbracciato Heidi. Ogni giorno al mattino si sarebbe svegliata presto per giocare con Clara. Heidi le mostrò i prati verdi, i tramonti rosei, il cinguettio degli uccelli. La piccola Clara era estasiata di tutto ciò. Allora, ti piace la montagna? È meraviglioso quassù, Heidi! Grazie per tutto questo! Passano i giorni e Peter era sempre più geloso di Clara. Pensava che avesse rubato la sua amicizia con Heidi. Un giorno, Peter vide Clara insieme ad Heidi, che ridevano sedute a giocare. Clara, voglio vedere cosa farai. Adesso nascondo la tua carrozzina, così torni nella tua Francoforte e ci lasci in pace! Preso da uno scatto d'ira, Peter prese lentamente la sedia a rotelle e la spinse giù per la montagna. E bam! La sedia si ruppe. Oh mio Dio! Che cosa ho fatto? Clara e Heidi si resero conto che la sedia a rotelle non c'era più. Era scomparsa. Clara si sentiva impotente. Oh, Heidi, dov'è la mia sedia a rotelle? Mi sto preoccupando! Heidi continuava a cercare, ma non trovava la sedia da nessuna parte. Non riesco a trovarla da nessuna parte, Clara! Chiamo il nonno! Heidi si precipitò a chiamare il nonno, ma lungo la strada incontra Peter. Peter, Clara ha bisogno di aiuto! Vieni subito! Aiutami a portarla a casa. Andiamo, Clara, vieni. Non ti preoccupare, ti aiuto io. Si compì un vero miracolo. Clara iniziò a camminare con piccoli passi insieme a Peter e Heidi. Mentre camminava, ha potuto ammirare la bellezza della natura intorno a lei. Peter era scioccato nel vedere che Clara, camminando, raggiunse la casa. La famiglia di Clara era così felice nel vedere la piccola camminare. Mamma! Papà! Posso camminare? Sto in piedi! Sono così felice! Siamo così felici per te, Clara, la mia bambina! Peter si sentì colpevole pensando alla sedia a rotelle e scoppiò a piangere. Cosa è successo, Peter? Perché stai piangendo? Ho gettato la sedia a rotelle di Clara giù per la montagna, perché ho pensato che Clara volesse tenere Heidi lontano da me. Peter, ti perdoniamo, figliolo. Tuttavia, la nonna di Clara capisce il motivo per cui ha fatto questo. Lei sa che si sente in colpa. Così, invece di punirlo, decide di ricompensarlo con un regalo. Ecco, ragazzino, prendi questo e non dire di no. La famiglia Sesemann ha distribuito doni ad Heidi e alla nonna cieca di Peter, al fine di rendere la sua vita più confortevole. Promettono al nonno di Heidi che un domani si prenderanno cura della piccola quando lui non ci sarà più. La storia si conclude con Heidi e la nonna che pregano insieme e ringraziano Dio per tutte le cose buone e belle che ha portato nelle loro vite.